Buonasera a tutti, lunedì inizia ufficialmente quella che è l'ultima settimana di programmazione su Rock FM di Harden Devi. Eh sì, lunedì replicato poi il mercoledì e domani avremo anche l'appuntamento, l'ultimo, quello del martedì. Un ringraziamento doveroso a tutti coloro che ci hanno seguito, che hanno seguito Marco Gravelli, Max De Rio, Simone Scavo e Luca Marchetti lo scorso sabato mattina, la nottata tra il venerdì e il sabato mattina con Harden Devi Nightmare. Un grazie di cuore a tutti voi, per noi è stato un piacere essere insieme a voi, tenervi compagnia in quella fase notturna di prima mattinata. E diamo allora spazio, grazie alla scaletta preparata appunto da Simone, all'appuntamento di questa sera con il primo gruppo. Si chiamano Midnight Club, uscirà alla fine della prossima settimana il loro secondo album, si intitola Circus of Life. È la band del chitarrista tedesco Stephen Seeger, già ex Mr. Hate, con i quali ha inciso un album nel 2007. In line-up ci sono anche il bravo cantante Carsten Schulz degli Evidence One ed ex Domain. E poi, presente come special guest in una traccia, il tastierista Dernbeg di ex Rudy Pell. La copertina, infine, è stata disegnata da Thomas Everard, che ha già lavorato per Masterplane e e Dead Guy. Il pezzo che andiamo a proporre, la traccia numero 2, si intitola Afraid of Love, da Circus of Life per i Midnight Club. Afraid of Love, il brano con il quale abbiamo aperto il nostro appuntamento di questa sera. Il marchio è quello dei Midnight Club, direttamente dalla Germania, con l'album Circus of Life, in pubblicazione alla fine di questa settimana. Andiamo invece alla prossima band esordio solista del trentenne virtuoso chitarrista bosniaco Emir Hot, ex componente dei Southern Storm e Neon Knight. La sua carriera comincia in una thrash metal band locale che in seguito sarebbe diventata il gruppo dei Neon Knights. Nel 2004 ha registrato anche un album strumentale che però non è mai stato pubblicato. Nel suo curriculum c'è anche un premio come Guitar Hero UK del 2005. Lo scorso anno infine si è diplomato al The Guitar Institute of Londra. Arriviamo così a questo album dal titolo Sedva Metal, che per essere un esordio vede due illustri presenze: alla voce John West, ex Royal Ant e degli Attention, e alla batteria niente meno che Mike Terrana, che ormai suona un po' ovunque, anche se ufficialmente milita nei Masterplan e Savage Circus. L'album si compone di 10 canzoni, delle quali la prima è un intro ed è strumentale, e musicalmente è un buon power metal di stampo neoclassico. Emir Hot lo vedrete dal vivo in Italia per due date nel mese di luglio: il venerdì 25 ad Arcole in provincia di Verona, il 26 a Misano in provincia di Rimini. Avrà una lineup composta da 6 elementi, confermato John West alla voce. Alla batteria invece ci sarà un altro grande ospite, cioè John Macaluso. Lo ascoltiamo con Devil in Disguise. vi dicevo nella presentazione del buon power metal di stampo neoclassico per questo chitarrista bosniaco chiamato Emi Roth. Emi Roth è anche il appunto il suo soprannome, diciamo, non suppongo che di cognome non faccia Hot, però. Selva Metal è il titolo di quest'album, da quello abbiamo proposto le note di Devil in Disguise, con alla voce John West e alla batteria il bravissimo Mike Terrana. Andiamo al Nordic Folk Metal con i Midnight Soul. Questo lavoro è uscito praticamente quando? Beh, alla fine del mese di marzo, per questa band che arriva appunto dalla Norvegia. Ci sono ben 6 elementi, dei quali 2 sono bionde ragazze, una cantante e l'altra bassista. Le parti vocali sono state registrate presso i Master Sound Studios, mentre segnaliamo che il mixaggio è stato curato da bravo Tue Madsen, masterizzazione dell'altrettanto validissimo Mika Jussila. L'album è disponibile in limited edition con una bonus track. Di recente il chitarrista fondatore ha deciso di lasciare la band per dedicarsi alla famiglia ed anche ad un suo progetto musicale parallelo chiamato Hub. Il pezzo che andiamo a proporvi quest'oggi, vengono alternati alcuni titoli in inglese, altri in lingua norvegese, ci provo a dirlo, è la traccia numero 2, Skuggens Langel, della formazione dei Midnight Soul, dall'album Nordlies. formazione che arriva dalla Norvegia con cantato femminile quasi operistico. Il loro nome è Midnattssol, che in norvegese significa luce della notte. Da questo loro album oggi abbiamo proposto la traccia numero 2. Cambiamo sonorità con Million. Verrà pubblicato il 26 di maggio tramite etichetta Metal Heaven con distribuzione Frontiers, il sesto album per questa hard rock band svedese, precisamente di Göteborg. La band addirittura nasce nel lontano 1989. Il loro esordio arriva nel 92 e arrivò numero 30 nelle classifiche di vendita giapponesi. Il secondo album gli valse anche date di spalla Magnum e Nazareth. Nel 99 cambiano vocalist. Arriviamo ai tempi più recenti, quando lo scorso settembre hanno stipulato un contratto con la Metal Heaven, che ne pubblica questo Thrill the Chase, nuovo album con 12 tracce registrate tra il mese di novembre e quello di gennaio. Oggi vi propongo la traccia numero 2, si intitola Menace to Society Million. I become, what's inside of me? Yeah. gruppo con alle spalle una lunga storia. Questi Million recentemente mi sono anche giunti i loro primi album completamente ristampati in versione CD, appunto. Menace to Society da Free Love Chase, il nuovo album degli svedesi Million, che cedono ora il passo invece a questa power metal band tedesca composta da 5 elementi nati nel 2000 con il nome di Seduction, poi lo hanno cambiato e nel 2006 pubblicano il loro primo album. 2 anni dopo arriva questo Ferrum Gravis. Viron con la V di Verona è il nome della formazione, ve li proponiamo con il brano che apre l'album, Liberator.

Grande ritorno dopo ben 11 anni, il nuovo album in studio per i Whitesnake di David Coverdale, gruppo che suonerà qua in Italia insieme agli Europe e Tiger Tales il prossimo 23 di luglio presso la Villa Contarini a Piazzola sul Brenta, provincia di Padova. L'attesa è stata lunga, però ne è valsa la pena. È pubblicato da poche settimane questo loro nuovo album dal titolo Good to be Bad. In line-up alle chitarre ci sono Duke Aldridge, che ha militato con Ronnie Dio e gli House of Lord, Reb Bitch, che ha suonato con Alice Cooper, Dokken e Winger. Ricordiamo che Coverdale ha militato nei Deep Purple dal 73 al 76 e ha inciso tre album, Burn, Stormbringer e Can't Ask the Band, e poi ha creato appunto questa sua band chiamata Whitesnake, del quale oggi vi ho proposto Can You Hear the Wind Blow. Ci sono 11 tracce in totale, 3 ballad e 8 pezzi molto molto rock come questo. Il prossimo gruppo è quello di John Oliva Spain, terzo album per questa band americana creata appunto da John Oliva dei Savatage. Il gruppo ha esordito nel 2004 con l'album Taj Mahal, seguito 2 anni dopo da Maniacal Renderings. Questo nuovo Global Warning è uscito tramite etichetta AFM Records e andiamo a proporvi il brano intitolato Heading the Coast, John Oliva Spain. Titolo del brano Heading the Coast, da Global Warning, il nuovo lavoro di John Oliva Spain. È un altro album importante, un altro artista conosciuto anche qua in Italia, e al lavoro che esce questa settimana è l'atteso 8° album Night Eternal per i Moonspell, band metal di punta del Portogallo, capeggiati dal cantante Fernando Ribeiro. Tenete presente che il loro album, anche il precedente, è arrivato al numero 1 in Portogallo, cosa un po' impensabile per una band così qua in Italia. arrivano da Brandoa. Il primo EP si intitolava Under the Moon Spell e ottiene grazie a questo un contratto con la Century Media, che pubblicherà tutti gli album fino al lavoro di Antidote, per poi passare alla Steam Hammer SPV. E la band si era imposta al pubblico e critica sin dall'esordio con il lavoro Wolf Art del 1994, considerato il loro capolavoro. Poi con il successivo Irreligious ottengono la consacrazione a livello europeo e partecipano anche alla prima edizione del Gods of Metal 1997. La band, disco dopo disco, ha cambiato un po' il sound, ritornando gradualmente a sonorità gotiche, soprattutto con gli ultimi due album. Si è rivelato il sound decisamente più pesante, quasi da richiamare il progetto Demon Arc del leader, appunto, Fernando Ribeiro. Per ottenere un sound così non potevano che rivolgersi al grande Tue Madsen. Presenti diversi ospiti femminili, tra i quali segnaliamo Neke, la cantante dei Ex Gathering, che canta nel singolo. Le parti di basso sono state suonate da Niklas degli Amorphis. Un ottimo ritorno. Il pezzo che andiamo a proporre si intitola come l'album, Night Eternal, sono i Moonspell. iniziamo anche questa sera l'appuntamento con le Metal News. Unholy Aliens capitolo 3. È stato annunciato un nuovo tour degli Slayer per questo prossimo autunno, anche se per ora è stata definita solo una data in Svizzera. Ad accompagnarli ci saranno Mastodon e Trivium. Seagulls Even, la prog metal band tedesca, ha reso noto che il 28 luglio pubblicheranno il loro primo album dal vivo. Si intitolerà Playgrounds. Le tracce sono registrate durante il Paramount Tour che li ha visti suonare tra il 2007 e il 2008. Revolution Renaissance, l'album d'esordio della nuova band di Timo Tolki, verrà pubblicato il 6 giugno e, come anticipato, alla voce si alterneranno Tobias Sam e degli Edguy, l'ex cantante dei Thunderstone e il grande Michael Kiske. Per il tour, che comincerà il prossimo gennaio e che vedrà in scaletta anche i classici degli Stratovarius, prende forma una line-up stabile e definitiva. Per la voce è stato scelto Gus Monsanto, proveniente dai francesi Adagio. Per le parti di batteria è stato selezionato il brasiliano Bruno Agra, degli interessanti Aquaria. Inoltre, non contento, in agosto cominceranno le registrazioni del secondo album. Andiamo in Danimarca con i DAD, l'hard rock band danese entrata in studio presso il Long Branch nel New Jersey per registrare il nuovo album che uscirà alla fine di quest'anno. Dalle dichiarazioni della band hanno registrato 19 cassette e tra una settimana rientreranno in Danimarca per completare il lavoro. Parliamo invece della prossima formazione. Il 16 di giugno verrà pubblicato il singolo che anticipa il nuovo album per la band americana degli Iced Earth. Il titolo del singolo è I Walk Among You. Ed inclusi ci saranno una nuova canzone più due del precedente album reincise con il rientrante cantante Matthew Barlow. Riguardo Barlow, nel frattempo lo abbiamo ritrovato nel nuovo album dei Paramise. Infatti è uscita alla fine della prossima settimana il terzo album dal titolo Immortal per questa power metal band che arriva dalla Danimarca, anche se alcuni musicisti sono americani. Il gruppo è stato creato nel 2001 dal chitarrista danese Michael Kemier. L'esordio è arrivato nel 2004 con l'album Melancholy Beast, che vedeva in formazione il bravo cantante Lace King, con il quale hanno inciso anche il seguente album, il secondo, ed entrambi hanno avuto ottime recensioni. Il risultato poi porta a questo Immortal, perché King è stato licenziato, al suo posto è entrato Matthew Barlow, e questo è l'album che verrà pubblicato dall'etichetta spagnola Locomotive Records. Li andiamo ad ascoltare proprio da quest'album in anteprima con il brano dal titolo Year of the Phoenix. Si chiamano appunto Paramise, dall'album Immortal. of the Phoenix, niente male, questo lavoro intitolato Immortal, buona produzione, buon sound per la formazione dei Paramiles, che abbandoniamo per andare in Austria con la symphonic metal band degli Edenbridge, capitanata dal cantato femminile ad opera della brava Sabine Edelsbacher. Il nuovo album si intitola My Earth Dream, vede la presenza anche di un'orchestra e il suono delle chitarre decisamente più pesante rispetto al passato. Andiamo a proporvi il motivo intitolato Paramount dall'album My Earth Dream Edenbridge. Con il brano Paramount, la formazione quella degli Edenbridge. E noi andiamo a chiudere il nostro appuntamento di questa sera, il primo dell'ultima settimana di vita di Arden Davis su Rock FM. Tiamat, a 5 anni di distanza dall'ultimo album in studio, è uscito da un paio di settimane questo nuovo album dal titolo Amanets, che è al numero 13 nelle classifiche di vendita in Svezia. I Tiamat sono una gothic metal band il cui leader è il cantante e chitarrista Johan Edlund, gruppo che nasce nella seconda metà degli anni 80, quando si chiamavano ancora Treblinka. ed in principio suonavano death metal. Nel corso degli anni poi hanno avuto una costante evoluzione musicale. Nel 1990 il nome diventa Tiamat e nello stesso anno arrivano anche l'album d'esordio Sumerian Cry, un album molto importante per la band. È stato il quarto, Wild Honey, che li ha consacrati, tanto da farli raggiungere la posizione numero 29 in Germania, dove hanno un buon seguito, ed intraprendere un tour di Spalla e Black Sabbath che portarono anche qua a Milano. Da questo loro album andiamo ad ascoltare il singolo Equinox of the Gods. Io vi ringrazio per avermi seguito sino a questo punto, un grazie di cuore come sempre a tutti voi, a Simone Scavo il mio autore, e un appuntamento a domani sera, non mancate, per un altro spazio, uno degli ultimissimi di Hard and Heavy qua su Rock FM. Da Marco Gravelli è tutto, ciao ciao. Rise from the ashes into it. Mariposa, Corso Lodi numero 1 a Milano, ti ha presentato...